Nei serpenti l'estromissione della lingua risponde all'esigenza di orientarsi controllando olfattivamente l'ambiente in cui si trovano. Fra noi che metaforicamente strisciamo non meno dei serpenti, l'estromissione della lingua è innanzitutto una forma di ripulsa, come se finalmente satolli rifiutassimo il latte che il seno della madre continua ad elargirci. E poi anche disprezzo e infine sbeffeggiamento, a meno che il movimento impresso alla lingua non lo faccia diventare tutt'altro: compito difficile, piacere alimentare, invito sessuale. Fatto è che anche i gesti si metaforizzano anche loro per slittamento di affinità in affinità. Quel gesto che voleva dire una cosa ne viene a dire un'altra. Chi rimane indietro nel tener di conto i passaggi e chi è escluso dal contesto specifico della comunicazione, potendo osservare un gesto tempo dopo che è stato compiuto, può ingannarsi o addirittura non saper più attribuire un senso a ciò che vede. Nel 1993 l'editore Mondadori pubblica Le bugie della scienza di Federico Di Trocchio, ne avevamo parlato a suo tempo, e sulla copertina del libro piazza una celebre fotografia, quella di Einstein che tira fuori la lingua. Si trattava di una fotografia abbastanza rielaborata, era tutto lasciato in una sorta di vivido bianco e nero, mentre la lingua dello scienziato, già evidente di per sé peraltro, risaltava in rosso. Non so la storia di quella fotografia, non so nemmeno se non si tratti di un fotomontaggio, ma dal momento che da sempre quella fotografia fa parte della mia personale enciclopedia mentale, suppongo che abbia cominciato a circolare almeno negli anni 60, qualche anno dopo la morte di Einstein, che è morto nel 55. Allorché il clima culturale, diciamo, ha cominciato a girare, allorché il clima culturale era risultato idoneo ad attribuirle un significato di portata sociale. Perché se la fotografia fosse autentica, rappresenterebbe pur sempre un particolare momento dello scienziato, magari uno scherzoso sberleffo rivolto a un amico durante, che so, una festa di compleanno, ma non ancora una ripulsa di un modo di pensare, di uno stile di vita o uno sberleffo generalizzato al mondo intero. A questi significati, sia che la fotografia sia autentica sia che no, ci arriva dopo, quando è buttata in un contesto dove qualcuno può capirla e condivide nello spirito. Ecco che allora la vediamo in formato di poster, magari alle pareti di stanze animate da persone giovanilmente riottose, la vediamo in giornali e riviste di qualche contenuto positivo e gradualmente ovunque, stemperando come una metafora ottuagenaria la sua valenza iniziale. Nei giorni scorsi ritrovo lo stesso Einstein, con la stessa lingua fuori ovviamente, in una versione che mio nipote Tommaso definisce warolizzata da Warhol, Andy Warhol, fino quasi alla perdita dell'identità. La ritrovo sulla copertina di un libro di Luc Burgin che, guarda caso, si intitola Errori della scienza. Dalle bugie agli errori, dagli scienziati che imbrogliano pur di godere di momentanee riverenze, agli scienziati che prendono cantonate mostruose pur di difendere l'assetto istituzionale della propria scienza. Il passo non è lunghissimo, perché l'atteggiamento conservatore non sempre, o meglio quasi mai, è retto da una cristallina buona fede. In questa scelta ribadita, le medesime copertine su due libri, ribadita fino, direi, all'ambire il vero e proprio errore editoriale, sta evidentemente una curiosa assunzione ideologica. Einstein fa pur parte della comunità degli scienziati. Ne ha sempre fatto parte, nonostante la lunga anticamera che gli hanno fatto fare come impiegato nell'ufficio brevetti di Berna. Einstein fra il 1905 e il 1915 pubblica le sue due teorie della relatività e diviene un pubblico genio. tutti coloro che hanno argomentato contro le sue tesi, anche quelli che ne hanno fatto notare le incongruenze o la vaghezza del quadro epistemologico in cui queste tesi vengono espresse, sono stati tutti ingiustamente dimenticati, morti e sepolti con le loro ragioni meno abilmente propagandate. La lingua fuori di Einstein, come ripulsa prima e come sberleffo poi, solo con qualche amputazione mentale può essere fatta passare come alternativa al sistema di cose o come invito a disprezzarlo e ad abbatterlo. Einstein si guardava bene dal fare le pulci alla scienza. Quell'immagine sui due libri, e forse ovunque, è apparsa, in definitiva ha rappresentato idee che con ciò che rappresenta non avevano nulla a che fare. Genio o non genio che sia stato, di certo a lui la scienza andava bene così com'era. A maggior ragione gli è andato bene il quadro ideologico al quale questa scienza era funzionale. Luc Burgin riporta nel suo libro alcuni documenti pubblicati su alcune riviste ungheresi negli anni scorsi. Da questi documenti veniamo a sapere che nell'archivio di una cittadina della Transilvania, a Târgu Mureș, c'è una cartella stranamente vuota. È la cartella che conteneva i manoscritti dei Bolyai, Farkas e Janos Bolyai, padre e figlio, matematici, morti rispettivamente nel 1856 e nel 1860. I Bolyai furono fra i primi a mostrare la possibilità di una geometria non euclidea e a sostenere che nessuna geometria a priori può essere detta più vera di un'altra. È certo che il loro lavoro, con quello di Gauss, di Lobachevsky e Riemann, è stato molto utile ad Einstein e alla sua teoria della relatività. Dal 1911, comunque, questi manoscritti risultano asportati e mai più restituiti. Fin qui, vabbè, nulla di strano, perché ogni biblioteca che si rispetti subisce furti. La cosa strana è che dalle registrazioni dell'amministrazione dell'archivio il nome della persona che li ha presi e che se li è tenuti figura essere Einstein. Lì sì, in questa cartella, la fotografia di Einstein con la lingua fuori, lì starebbe benissimo.